Buonasera e benvenuti a Nottetempo 7 Minutes, sono Livia Napolitano, viaggiamo sulle onde sonore di Radio Libriamoci Web per scoprire il vasto panorama musicale rilasciato sotto licenza Creative Commons. Sempre più artisti decidono di realizzare i loro progetti in maniera indipendente, mettendo a disposizione la loro musica liberamente fruibile e condivisibile. In questi 7 minuti vi proporremo delle pillole musicali per raccontarvi i più interessanti progetti realizzati dalle net lovers più influenti nel campo della musica indipendente. Le net label sono delle piccole etichette che operano su internet, pubblicano i loro lavori in edizione limitata e li rilasciano liberamente in rete in free download. Questo interessante fenomeno ha origini agli inizi del punk rock, quando nascevano le prime etichette indipendenti e cominciava a diffondersi la cultura do it yourself, e con il diffondersi di internet è cresciuto in maniera esponenziale. La net label protagonista di questa puntata è Ephedrina, il titolo del pezzo che ci ha accompagnato in questa prima parte, Berlin Ice Bar di Psicoro e Sempitto. Ora vi lascio all'ascolto di un altro brano pubblicato da questa etichetta, Love and Respect dei Cybernova. It is a matter of human brutality, disrespecting rights and equality. We get to learn to live in harmony, communication, love and respect. It is a matter of you.